Jamie Tights. Ai, DJ Cine. L'unico compromesso è 10 canne al giorno con una birra fresca. Il sorriso quando è una tempesta fuori la finestra. Non un prete che mi processa e dopo mi confessa. Mi demolisco con qualsiasi cosa mi è concessa. Nuoto nel fiume fra della gente comune che sente la verità e abbassa sempre il volume. Sono stanco di stare in mezzo ai fantocci che fanno a gara con gli orologi. Sbregano il tempo che è loro oggi. Il mio tempo è ora e non perché c'ho un Rolex, ma perché c'ho fame. 24 anni di vita infame, immerso nel catrame. Mi hai tolto la speranza e le persone care. Non ti porti via il resto per tenerlo, so come fare. Ho una clessidra nel cuore come sul braccio. Polmoni neri come la croce che ho sul polpaccio. E se spendo anche con addosso uno straccio, perché dal fondo che mi lancio un propagatore di disagio. Questa è la vita mia, sopra la scrivania scrivo l'anima mia. È il solo modo che ho per sfogarmi da qui e levarmi da sé. Alzo le corna e c'è. L'unico compromesso è vodka nel bicchiere quando sto sul palco, sudato con il volto bianco come il borotalco. Treppo anche rotolando, uno come me non sanno dove collocarlo. Allora vaffanculo a rotocalco. Lo faccio per la prima fila con le canne accese. Per chi non ha difese, non ha mai frequentato chiese. Per chi ogni mese vede aumentare debiti a spese. Tu dici questo è palese, ma solo in questo paese. Pensieri come anfibi neri dentro i cimiteri. Veleni dentro i cieli come i film di alieni. Fanno finta di avere sentimenti sinceri. Passano due ore e siamo già agli argomenti di ieri. Sta tutto nello scegliere di essere onesto. Dire la verità anche se non te l'hanno chiesto. Felice o depresso, ma sempre me stesso. Questo è l'unico compromesso. Questa è la vita mia, sopra la scrivania scrivo l'anima mia. È il solo modo che ho per sfogarmi da qui e levarmi da sé. Alzo le corna e c'è.